Agata, Lello e Bio. E al cammino del Gigi D'Agostino. Gigi, dalla tabaccheria più tamarra d'Italia, ti ascolto sempre. Bravo. Con i clienti che con le tue martellate diventano lenti, violenti. Sì, sì. Quando è che vieni da queste parti a far tremare la terra? Io non so. Ricky di Jesolo, Venezia. Dedicare impressioni di settembre al mio amore Florina, dicendole che la amo da morire. Guido. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è. Forse no, e sveglia, mi guarda, non so. Giallo dove della terra odor di grano, sale da giù verso.

Gigi D'Agostino saluta con una pennellata e un colpo di martello Francesco da Muro Lucano, Dami di Brescia. Vorrei fare una canzone. La dedico a Isma per i suoi 21 anni. E anche un po' a me, dato che quando l'ascolto sento la voglia di vivere pompare nelle vene. Grazie G. E auguri Isma. Laura da Como. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade alle persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone, anche solo per cantare, anche solo per cantare. Thank you. Ciao Gigi, sono Mauro Bigi del forum gigidagostino.com. Vorrei dedicare Con te partirò al mio amore Titti e dirle che è una persona troppo importante per me. Ok. Ciao Gigi, siamo Dylan e Ubix del forum gigidagostino.com. Domenica sera a Rimini hai spaccato di brutto. È vero, è vero. Un saluto a tutti coloro che hanno condiviso con noi questo capitolo infinito di Cammino. D'Agostino saluta con una pennellata e un colpo di martello Adelaide e sua sorella di 14 anni. Ma ciao proprio. Ogni giorno, dalle 2 alle 3, Gigi D'Agostino, il tuo caffè. Inferno Voice dal forum gigidagostino.com. Dai un po'. Cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ti scassa un pochino. Ecco qua, va. Se volete scrivermi 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Se hai l'impulso mi scrivi, se no desisti. Laura, indipendentemente ti amo. Capito. Andrea da Arezzo. State ascoltando una musica bella da ballo. E io sono Gigi D'Agostino, musicista panzerino. E chi si è sintonizzato adesso è bene che sappia che sto suonando io. and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Caro Gigi, vorrei dedicare Digital Dream a Maya per dirle che la amo ancora. Ogni volta che l'ascolto non posso fare a meno di commuovermi. Un abbraccio forte. Christian da Lavagna. Some soul in my machine. Machines do not dream. Feed your dreams in my machine. Feed your dreams in my machine. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Sabato notte, con le tue note ci hai fatto sognare.

parte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Vorrei dedicare Welfare alla mia amica Federica. Un saluto a tutti i tamarri del forum gigidagostino.com. We'll be right back.